Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Questo movimento si allargherà qui, non vinciamo, io ve lo dico subito, noi non vinciamo stavolta, noi stravinciamo, è diverso. Se mi fate piangere non parlo più. Danno la colpa alla Merkel delle proprie incapacità. Oh, non è mica colpa della Germania se l'Italia non funziona, eh? Smettiamola con questa storia. Bene, compito arduo il mio di intrattenervi fino alle ore 13 su quello che è il vostro sentire, il vostro punto di vista, la vostra opinione, perché è giusto che parlino anche le persone. Quel 42% che non è andato a votare probabilmente non è interessato, più o meno sono sotto mano tutte le cifre esatte dell'assenteismo, che è stato notevole, ma non tanto quanto il resto d'Europa. Comunque sono state delle elezioni europee che hanno avuto una fattispecie di particolarità, di diversità. Lo dimostra il fatto che oggi il vincitore assoluto, lo stravincitore delle elezioni, si presenta vestito a lutto. Uno direbbe: come vestito a lutto? Dovresti andare lì con lo champagne, con le bandiere, le feste. Invece no, ha tenuto un profilo molto basso, fin da adesso la conferenza di Matteo Renzi, e ha anche detto alcune cose che forse danno una chiave, non dico di spiegazione, ma di lettura, perché gli italiani si sono comportati in questa maniera. Una cosa, gli italiani hanno dimostrato che sono imprevedibili, nessuno aveva previsto il comportamento degli italiani in questa circostanza. Tutti pensavano al voto di protesta, allo scassamento, avevo visto, seguito per altre cose questa campagna fatta di finalmente l'abbassamento totale di tutte le ipocrisie che normalmente si hanno in campagna elettorale. No, non è stata una campagna cavalleresca, è stata una campagna senza esclusione di colpi. Ognuno ha dato addosso l'altro come poteva, sui fatti personali, sulle storie passate, sulle vigliaccate, sugli insulti. Stato messo tutto in campo, perché tutti dovevano comunque giocarsi il tutto per tutto. E qual è stato invece il messaggio adesso di Matteo Renzi? È stato un messaggio molto francescano, un messaggio per la prima volta in una campagna in cui, diciamo, se parlava di tribunale del popolo in piazza, come giornalista ero anche preoccupato, perché adesso quando vinceremo faremo i tribunali di popolo e giudicheremo i giornalisti, cioè mi vedevo io con me figlioletti, la mia povera moglie, portato in catena in piazza e con tutte le ascoltatrici che normalmente mi chiamano, mi insultano, rimangono male dicendo: eccolo, adesso è lui, la testa, vogliamo il sangue, lì tutte a fare il pedalino con l'uncinetto e aspettare che la ghigliottina cali. No, tutto questo si è sgonfiato come un grande palloncino il giorno dopo la festa di compleanno. E Matteo ha detto: vogliamoci bene e teniamoci tutti per mano, appello a uomini e donne di buona volontà, anche quelli che sono stati sconfitti meritano rispetto, per loro hanno votato milioni di persone. Insomma, un discorso che riammette una grande idea di paese, di persone che si vogliono bene, di persone che comunque hanno un obiettivo ben preciso, e quello non tanto la sopravvivenza, ma quello di riuscire a guardarsi intorno. Beh, in questo momento certo c'è chi piange amaramente, c'è chi fa dei conti, se chi aveva giocato la battaglia sul fatto si vince o si muore. E beh, ragazzi, se uno si appropria di slogan del passato, si salta l'ostacolo, si vince o si muore, taci, il nemico ti ascolta, se poi perde deve avere il coraggio comunque di fare quello che fanno tutti gli integerrimi imperitori eroi quando perdono: si sparano, scompaiono, prendono il sacchetto di semi e l'aratro e vanno a coltivare il campicello. 800 24 00 24, qual è il vostro punto di vista? Avete votato? Avete capito per cosa si votava? Vi siete resi conto di quello che è accaduto questa mattina, che comunque un mondo è scomparso, il mondo legato tutto a una certa idea della vita, dell'esistenza, tutto quello che è riconducibile in un personaggio che comunque ha monopolizzato l'attenzione del paese per vari decenni, è scomparso, livellato, veramente asfaltato. Un altro mondo che sembrava sorgere, fatto di scontrini fiscali portati mano nella mano, di persone che dormono in 10 in una cameretta, di questa sorta di fulgida gloria dell'ascetismo che sembrava risolvere tutti i problemi, ha avuto una bastonata notevole. Avete visto la conferenza stampa, molto atipica, tanto che il rompiscatole delle Iene Enrico Lucci, veramente per la prima volta ha avuto la dignità di un altro giornalista. Nessuno l'ha cacciato, non c'erano uomini in divisa, guardie a spalle, butta fuori e lo portassero via. Ha parlato addirittura prima di giornalisti molto titolati come il corrispondente di Bloomberg, ha fatto la sua domanda, ha preso per il culo tutti, ma comunque c'era spazio anche per lui. Maurizio, provincia di Genova, buongiorno. No, Alessandro da Pescara, non so perché ve l'ho scritto Maurizio. Alessandro niente, da Pescara. Buongiorno e grazie di avermi chiamato. Sì. Io questa spenga la radio però, perché sennò c'è un eco. Io vedevo come un suino in calore a vedere la faccia di Marco Travaglio che arrampicandosi sugli specchi cercava di sminuire la vittoria di Renzi. È ancora felice, lo sento, lei ancora sta, diciamo, in una fase di recupero post-orgasmatico. Certo, certamente. Senta, vabbè, ancora ride, beh, veramente è così preso. Non mi piace per sentire questa passione politica, pensavo fosse scomparsa. Oltre ad aver goduto come un maiale in calore, ancora questa mattina ha la coda lunga del suo godimento. Per aver visto Travaglio? Dopo aver visto Travaglio, ma lo vorrò vedere giovedì. Col suo calepino in mano e quindi commentare, perché Travaglio, le premetto che una volta a me piaceva, ma adesso essere sempre tutto contro tutti e proprio soprattutto arrampicarci sugli specchi, ha detto adesso verranno i problemi perché Renzi. Ma lei, scusi, lei invece per chi ha votato? Per Renzi, mi sembra di capire. Certamente. Ma perché non segue? Non l'avevo votato prima, Beh, prima era un po' difficile votarlo prima, perché anni. A parte prima non poteva votarlo solo se era cittadino del comune di Firenze, non poteva votarlo. Adesso ha votato, però non sta in linea perfettamente con quelli che sono i dettami del suo leader. Oggi la posizione è un basso profilo, abito scuro, quasi da lutto, quasi oppure da sposo nei paesi di campagna che si veste di nero, come che è lo stesso vestito che si mette quando ci si sposa e quando ci si sotterra, la stessa cosa, vestito unico, è molto agreste questa scelta, molto arcaica, però ha detto teniamoci tutti per mano, e la sua è una sorta di tratto di misericordia, anzi di riconoscimento dell'onore delle armi al nemico che ha perduto. Lei gode come un suino, non è l'atteggiamento giusto. Fa parte del gioco questo. Ah, fa finta Renzi, quindi l'ordine è questo. Ah, ho capito, sì, ho capito. Allora, bisogna far finta di essere buoni, ma in realtà bastonare chi ha perso deve andarsene veramente, asfaltarlo con piume e bitume, questo è il senso, molto chiaro. Bruno. Pronto? Sì, vediamo se allarga il nostro... Sì, posso? Certo, è lì. Ah, buongiorno signor Nicoletti, intanto è un onore parlare con lei. Vai, no, non esageriamo, dai. Forza, parliamo di quello. Senta, che è accaduto. Allora, il discorso è questo, secondo me Grillo, parlo adesso di Grillo, ha rappresentato una sorta di deresponsabilizzazione dell'italiano medio, cioè nel senso che è facilissimo criticare tutto e tutti e dire le cose che vanno male. È piuttosto singolare che un popolo che ha prodotto una classe politica che non viene da Marte, ma che è stata eletta attraverso delle elezioni degli anni passati dagli stessi che adesso hanno votato Grillo, possa cambiare pensando di affidarsi a una persona che senz'altro non è come... Sì, però guardi, con la logica del senno del poi lo possiamo dire, ma fino a ieri mattina stavano tutti con il cardiopalma, perché la voce che girava, la vulgata, dice asfalteranno tutti, vincere. Ho sentito persone insospettabili dirmi io voto Grillo, basta, devo dare un segnale. Tutti hanno voluto dare un segnale, ma evidentemente... Invece di dare il segnale, altre persone hanno pensato di consolidare quella sorta di anima generale, un po' populista, un po' democristiana, un po' basata sui valori. Insomma, è stata votata la sicurezza di fronte a mille incertezze. Una parte il voto per il bocconcino per gatti e cagnolini, d'altra parte asfaltiamo tutti, facciamo i processi di piazza, bene o male uno se deve fare una scelta sceglie una via mediata. Stefano. Sì, buongiorno. Buongiorno. No, io volevo intervenire perché praticamente secondo me c'è veramente poco da festeggiare. Ma perché? Perché ha vinto sempre la solita Italietta, adesso è troppo facile attaccare Travaglio, Grillo, ma cosa cambierà per noi? Cioè ha vinto con lo slogan, ragazzi, se viene su Movimento 5 Stelle l'Italia va a scatafascio, ma non era così. anzi, un momento, ecco, l'Italia ha dimostrato per l'ennesima volta che quando si possono cambiare le cose e migliorare, eventualmente, perché ho detto, magari si possono anche peggiorare, ma siamo noi italiani a dare il governo come Movimento 5 Stelle e peggiorarlo, migliorarlo. Comunque andata, non si può fare le previsioni sulla fanta politica, questo è accaduto. Per 30 anni hanno governato loro, centrodestra e sinistra con altri nomi, e non hanno fatto niente. Per una volta che si ha la possibilità, l'italiano come al solito si fa spaventare. Ma qual è stata la ragione? Secondo lei, allora vediamo, lei è convinto sia stata una campagna mediatica di così forte sostegno a un'idea renziana che alla fine hanno convinto tutti, hanno vinto i media un'altra volta? No, i media per carità. E allora chi è che ha vinto? Perché la campagna ha vinto la furbizia di Renzi di dire se viene su il Movimento 5 Stelle qui cambiano le cose in peggio, il mercato è stato furbo perché ha sfruttato l'idea della... Questo è il suo punto di vista. Sentiamo sì. Alessandro Lagni. Alessandro Lagni, buongiorno. Buongiorno. Allora, Alessandro Lagni è un giornalista, lavora per il giornale Pagina 99, ha collaborato a un libro che è appena uscito, Alfabeto Grillo, dizionario critico ragionato del Movimento 5 Stelle, Mimesis Edizioni. Aveva pubblicato Avanti Popoli, Piazze TV Web, Dove va l'Italia senza partiti, Marzullo Edizioni, su cui l'abbiamo sentito. D'ora in poi con te mi confronterò. Ho fatto in modo di darti un attimo quello che era caldo, l'impressione. Abbiamo preso a caso 3 telefonate, però una rappresentativa di uno stato generale. Qual è il tuo punto di vista? Cosa ha fatto vincere chi ha vinto? Perché si pensava, vecchi media ormai sono tracollati, la televisione non serve più a nulla, i quotidiani ormai sono carta straccia, la forza della rete. Ma mi sembra che abbiano vinto i salotti di Vespa, le prime pagine di Repubblica, del Corriere della Stampa, altre cose se diciamo che l'universo mediatico ha influenzato il voto. Sì, sicuramente l'incontro tra Grillo e Vespa di qualche giorno fa doveva, ho l'impressione, accendere una lampadina a molti, tra cui anche io stesso, che preventivavo un risultato molto diverso per queste elezioni. Se Beppe Grillo è stato magistrale Vespa, devo dire, in quell'occasione Vespa è stato magistrale, ma la decisione di andare da Vespa doveva metterci in preallarme, o soprattutto mettere loro in preallarme, perché se a pochi giorni delle elezioni Grillo decideva di andare in una trasmissione che forse, come ha detto esplicitamente, schifava più di ogni altra, vuol dire che qualcosa non stava andando bene per loro. C'è andato e non è che è uscito benissimo. Se tu vai col coltello fra i denti e finisci con il selfie insieme al padrone di casa facendo il buffoncello dietro, finisce male. Melog. Cronache meridiane. Stiamo facendo una riflessione, corroborati dall'opinione del pubblico su quello che è il risultato elettorale. Stavo parlando con Alessandro Lagni, che è un giornalista che lavora per il giornale Pagina 99, che ha scritto vari libri, in particolare su quelli che sono le novità rispetto ai movimenti politici, l'ultimo Alfabeto Grillo, dizionario critico ragionato del Movimento 5 Stelle. È che non vorrei sembrare Alessandro stamattina il solito Maramaldo, che già conferma la tesi di tutti, diciamo, le persone che hanno votato, sono sentite rappresentate dal Movimento 5 Stelle, che c'è una sorta di casta di giornalisti che gli ha dato conto. Però in effetti gli spazi l'hanno avuti, ma l'opinione generale espressa dai giornali, dagli opinionisti leader, era tesa a metterne, ma come penso che sia giusto, in luce gli aspetti paradossali, le contraddizioni. A Vespa sono bastate 2 domande a Grillo, che gli ha fatto fare un grande show, ma in quelle 2 domande in cui l'ha smentito sulle sue maniere facili di capire come avrebbe potuto cambiare una legge costituzionale, si è capito che mancava la base. Sì, era molto divertente e condivisibile, ma governare era un'altra cosa. Sicuramente, io sono convinto, come hanno scritto studiosi del Movimento 5 Stelle molto più autorevoli, che esistano vari livelli di fedeltà a quel voto e per quel movimento. Io penso che il livello più esteriore, quello più volatile, quello per cui semplicemente votare Grillo era un vaffa alla politica, in una una seconda tornata elettorale non abbia più dato il voto. Mi sembra esemplificativo il caso della Sicilia, che era il bacino dove il Movimento 5 Stelle pescava di più in questo giro elettorale, come peraltro in tutta Italia. Diciamo in generale mi sembra 2,5 milioni meno di voti rispetto alle politiche, non è uno scherzo, pochi mesi. No. Sì, vince a Lampedusa, ecco, il Movimento 5 Stelle è il primo partito. Che hanno, secondo me, una situazione, si sentono già fuori, è una extraterritorialità, è una dimensione parallela vivere a Lampedusa, penso, in questo momento, li capisco. Quindi sì, diciamo che il girare a vuoto poi alla fine della propaganda di Grillo, del Movimento, lo abbia penalizzato alla fine. Ecco, secondo te questa è l'eclissi, dove, diciamo... La stravittoria, diciamo, di Renzi, di Matteo Renzi e tutto quello che rappresenta, alle spalle comunque fa sì che ci sono due funerali. L'uno, quello di Berlusconi, tutto quello che rappresenta, lasciamo perdere i satelliti che poi le varie diaspore dietro che sono proprio scomparse all'orizzonte, non sa nemmeno più dove andranno a finire. Però già era sembrata un po' appannata una campagna basata sulla gerontocrazia, sui cagnolini per tutti, liberiamo tutti i canili. È stato un po' poco chiaro sugli attacchi personali a Grillo alla fine, ancora con la storia dell'incidente stradale, un assassino. Sembra un po' un tentativo arrancato di dare un'alternativa. E d'altra parte, quello che abbiamo già detto, sai, quando si dice manderemo a casa tutti, vinceremo noi, faremo processi di piazza e via dicendo, e poi si perde in maniera così clamorosa, bisogna gestirla questa sconfitta. Sì, la poesia di Kipling che poco fa Grillo ha pubblicato sul suo blog, secondo me, da una parte rivendica l'orgoglio della battaglia, come è giusto che sia, d'altra parte... Sì, ma i guerrieri, se perdono la battaglia, non si fanno portare in catene sotto l'arco del trionfo dei vincitori, questo deve essere chiaro. Certamente. Cioè, se vuoi fare il guerriero lo fai fino in fondo, se no non lo fai, giochi. Sì, d'altra parte comunque ci sono 6 milioni, quasi 5 milioni e 800 mila di voti, che non sono poche, di gran lunga il secondo partito. Sì, quindi sì. Mi auspico che ci sia in qualche modo una responsabilità di fronte anche a questi voti, a queste persone che l'hanno scelto. È quello che ha chiesto Renzi, velatamente. Dice, voi che avete grande rispetto, però in questo momento capite che bisogna lavorare assieme, non potete più fare le barriere. Certo. Non so, tocchi le telefonate un attimo solo. Giuseppe, ecco Giuseppe, oggi è un po' un casino. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, sì. Buongiorno a tutti gli radioascoltatori. Mi ascolti, io sono un iscritto al Movimento 5 Stelle. A parte il risultato, che mi pare molto significativo tra le altre cose, perché noi non eravamo presenti in Europa, il 21% mi sa che è un buon risultato, al di sotto certamente delle nostre aspettative. Sì, Giuseppe, mi permetta, da voi non mi aspetto il solito discorso che è sempre fatto in 70 anni di Repubblica, alla fine elezioni, giocando per... Io volevo dire l'esempio contrario, Nicoletti, che secondo me il cambiamento va effettuato poco alla volta, è impossibile cambiare tutto in un attimo, l'Italia non è stata fatta in un giorno, tra le altre cose. E poi volevo dire che c'è stato un tremendo flop dello staff comunicativo di Grillo, che ha alzato i toni, secondo me... E questo mi interessava capire, da una persona informata, qual è stato il problema? Ma il problema perché diciamo era una strada abbastanza facile, a un certo punto dove si è sbagliato? Ma si è sbagliato, dando questo messaggio molto molto forte, che era l'ultima spiaggia, io perlomeno l'ho vista così, e invece non è così, insomma, un movimento che è nato da poco e che ha preso il 25% alle politiche e il 21% alle europee, ha bisogno del tempo comunque per crescere. E quindi potevano tenere uno stile un pochino più immediato e meno aggressivo, non c'era più bisogno di aggredire. Ma anche dei toni molto più bassi. In questo frangente penso che lo staff di Grillo, nel modo di comunicare, abbia fatto un tremendo errore, lo staff, perché poi si sa che tutti i leader politici non decidono da soli, o meglio no, c'è una strategia, spero, c'è una strategia, certo, di comunicazione, certo, cioè Casaleggio si occupa di comunicazione da sempre, certo, quindi ma avranno pensato, alziamo i toni, spariamoci tutte le cartucce, c'è stata una strategia. Evidentemente hanno pensato male. Hanno forse valutato male, diciamo, la paura degli italiani di andare verso una lettura totalitaria, comunque, perché guarda che i toni erano quelli, poi hanno esagerato, gli ha dato del nazista, dello Stalin e via dicendo. Quello, però io che leggo tra le righe e conosco un po' la storia, si è lambito molte volte il rischio di, quando si dice andiamo, faremo i processi pubblici alle persone, non si fanno i processi di popolo, non esiste questa cosa, è una cosa che la storia ha condannato, non si può nemmeno dire, secondo me, non perché mi sento io investito come categoria, mi sembra che queste cose qui creano terrore e sospetto nelle persone, anche se sono dette per provocazione, o sbaglio? No, no, ma è così, ma io penso, guardi, io quando si è votato praticamente sul blog di andare a sentire Renzi, io sono uno di quelli, sinceramente, mia colpa, che ha detto no, io con Renzi non mi sono accorto dopo che evidentemente anche da parte mia, preso dal fervore, preso da un sacco di cose, si è sbagliato, che perlomeno si poteva far venire allo scoperto almeno Renzi, vedere quello che voleva dire e poi praticamente si scopriva il blend. La ringrazio, mi serviva questo tassello visto all'interno. Alessandro Lanni, proprio una battuta in conclusione, hai sentito, diciamo, la riflessione intelligente da parte di questa persona che ha votato 5 Stelle, cosa ne pensi? Penso che abbia ragione. Io ricordo il primo incontro faccia a faccia tra Grillo e Renzi a Palazzo Grillo, le consultazioni di Renzi, e sebbene in molti dicessero quanto gliel'aveva cantata Grillo, si vedeva che era in profonda difficoltà innanzitutto rispetto alla capacità di dialogare con qualcuno. È come quelli che rovesciano la scacchiera quando stanno per perdere. Esattamente, con Vespa è andata per altri versi in maniera analoga, e della profonda difficoltà politica di fronte a quel tipo di personaggio che stava salendo in quel momento a Palazzo Chigi. È chiaro che questo riesce a infervorare le masse, vedi come gliel'ha detta, gliel'ha cantata, poi a Red Reazione le cose sono leggermente diverse. La linea al giornale radio con appunto gli approfondimenti importanti e necessari su questa importante e unica giornata.